ribadire una richiesta che risale a 14 mesi fa, cioè una richiesta di valutazione di impatto sanitario sul passante di mezzo, sull'allargamento della tangenziale autostrada. L'abbiamo chiesto ufficialmente al sindaco e al presidente della regione, nessuno dalle istituzioni si è degnato nemmeno di rispondere. Quindi abbiamo pensato, insomma, di ribadire questa richiesta. A cosa serve una valutazione di impatto sanitario? Serve a determinare quanto negli anni pregressi, tipicamente i passati 10 anni, il passante ha influito sulla salute delle bolognesi e dei bolognesi e quindi cosa ha significato, cosa ha comportato in termini di ricoveri ospedalieri, malattie, morbidità, morti premature, eccetera. È una valutazione che si fa, secondo gli esperti che abbiamo consultato, in 6-8 mesi e quindi se il sindaco e il presidente di regione ci avessero ascoltato, a quest'ora noi avremmo già i risultati. Perché è importante fare questa valutazione? Perché procedere a un'opera così impattante come l'allargamento di un'autostrada in pieno territorio urbano che interessa direttamente 90.000 persone e indirettamente tutta la popolazione di Bologna, ecco, fare quest'opera senza conoscere l'impatto che ha sulla salute delle persone è un atto sicuramente esecrabile secondo noi. Valutazione di impatto sanitario si occupa quindi di valutare il passato, non richiede la raccolta di dati, quindi è una cosa che si può fare tranquillamente con strumenti già a disposizione di ASL, di ARPA e degli uffici della regione, valuta il passato per poi andare a vedere cosa succederà nel futuro facendo delle simulazioni con dei modelli. Quindi è importante vedere nel futuro cosa significa avere il passante allargato oppure per esempio non averlo, oppure aver centrato quegli obiettivi ambiziosi che si è posto piano urbano della mobilità sostenibile di Bologna di ridurre il traffico automobilistico in città o per esempio di potenziare finalmente il servizio ferroviario metropolitano, un'opera che aspetta da 30 anni senza che si faccia praticamente nulla. Queste sono le motivazioni, diciamo, della nostra presenza qui. Torneremo da queste parti lunedì prossimo per fare un po' di rumore, cioè di fronte al silenzio tombale delle istituzioni sulle nostre richieste, noi verremo qui in piazza armati di pentole, di tamburi, di qualunque cosa possa fare un po' di rumore per essere rumore, per sostituirci in qualche modo, dare voce alla città di Bologna, voce che dovrebbe essere data da chi si è assunto la responsabilità di rappresentarla, delle istituzioni. Sono passati ormai 14 mesi da quando è stata richiesta, proposta questa valutazione di impatto sanitario da parte di decine di associazioni. In questi 14 mesi non solo la valutazione di impatto sanitario non è stata fatta, ma nessuno tra coloro che hanno ricevuto questa proposta, sindaco, presidente della regione, consiglieri, assessori, ha nemmeno pensato doveroso dare un minimo cenno di risposta alle tante cittadine e tanti cittadini che hanno chiesto questa valutazione. Per questo oggi stiamo affiggendo questa lapide che targa, che ricorda appunto i due alberi, Lepore e Bonaccini, due alberi che sono stati piantumati il primo giorno di primavera, lo scorso 21 marzo, dalla realtà ecologista bolognesi, e che un giorno dopo sono stati purtroppo abbattuti. E questi due lapidi chiedevano con forza la valutazione di impatto sanitario e sono appunto stati posti sotto silenzio. Per questo lunedì, come accennava Luca, torneremo qui davanti a Palazzo D'Accursio con una spentolata rumorosa per contestare l'assenza di una valutazione di impatto sanitario, per contestare un progetto che devasta Bologna e su cui non sappiamo niente. La grande domanda che facciamo è molto semplice: perché in tutti questi mesi il sindaco e il presidente della regione non solo non hanno voluto fare la valutazione di impatto sanitario, ma non hanno neanche voluto dirci perché non la vogliono fare? C'è qualcosa da nascondere? Pensano forse che una valutazione di impatto sanitario possa smentire le loro garanzie sul fatto che questo passante sarebbe green e sostenibile e sarebbe una cosa da fare in piena crisi ecologica? Che ce lo spieghi una volta per tutte. Loro sono stati zitti per mesi e mesi e quindi noi lunedì veniamo a fare più rumore possibile per contestare questo silenzio tombale.